Sì? Ma c'è bisogno? Sì. Ok, ho capito. Giustamente. Bene, ciao a tutti. Vado, no, io insomma c'è l'ansia. Allora, ciao a tutte, tutti, tutto quello che c'è nel mezzo. Benvenuti. Oggi introduco, è un po' alto, tipo, scusami, sono un po' in alto. Ok. Sì? Ok, sì, ce la posso fare. Oggi appunto introduco brevemente Martina, che è qui con il suo ultimo, giusto ultimo, ultima fatica. L'uomo che voleva nascere donna di Joyce Lussu. Allora, che dire, parlerà lei ovviamente, più che altro, giusto per introdurre così l'autrice a chi magari non la conoscesse e appunto volesse sapere qualche dato, ecco. Lei è ovviamente nota ai più, direi purtroppo, però, per essere stata la moglie del più noto Lussu, Emilio, partigiano e insomma politico, insomma, è quello che tutti conoscono. Ma ovviamente la sua carriera, la sua vita è estremamente più vasta dell'ombra appunto di questa figura maschile a cui magari viene associata, e parte tra l'altro da Firenze. Lei nacque a Firenze nel 1912 e nella sua lunga, perché è morta a Roma nel 1998, nella sua lunga esperienza è stata molte cose: partigiana, scrittrice, saggista, traduttrice, capitano delle brigate di giustizia e libertà, medaglia, giusto? Medaglia d'argento al valore. Insomma, ecco, una donna straordinaria, in un momento storico straordinario, direi, e che appunto ha origini tra l'altro nobili. La famiglia era di origini nobili, il padre era un conte e la madre appunto discendeva tra l'altro da un'altra grande scrittrice. La nonna era una scrittrice inglese, una delle prime donne a essere riconosciuta come scrittrice, quindi insomma si chiama Macaulay. E quindi diciamo da queste origini molto aristocratiche, molto nobili, e, parte un po' il percorso di questa vita, direi avventurosa quantomeno, che attraversa un po' il secolo, grazie appunto alle sue origini aristocratiche, benestanti. Lei riesce ovviamente ad avere un ingresso a un mondo culturale molto, molto complesso, molto, molto vicino appunto agli ambienti intellettuali dell'epoca, proprio grazie al padre che era così vicino, amico di molte figure storiche, e addirittura lui si candidò, mi sembra, nel 21, quindi ecco, una famiglia che, come dire, era legata a doppio filo alla storia italiana e alla storia intellettuale italiana dell'epoca. Il fratello, anche lui noto storico antifascista, Max Salvadori, perché forse non ve l'ho detto, forse l'ho detto il nome, lei si chiamava Gioconda Beatrice Salvadori Paleotti, quindi è un po' tipo Serbelloni Mazzanti, Vien dal mare, insomma queste, ecco. Però nel 1933 lei appunto, dopo un periodo nella Germania nazista, diciamo, ecco, in cui il nazismo si stava diffondendo, in cui era andata per studiare, sposa quello che sarebbe stato il suo primo marito prima di Lussu, e si trasferiscono in Kenya Vabbè, poi la storia col primo marito, insomma, non andrà a finire bene. Lei poi nel 33 conoscerà Lussu e con lui condividerà appunto un percorso molto, appunto, molto importante, molto bello attraverso la storia della resistenza italiana. Questo giusto per così per dare un quadro un po' veramente dei massimi in una vita che è veramente, credo, impossibile e anche inutile, appunto, da riassumere appunti storici. Quando mi sono informata un po' per introdurre questo libro, mi è venuta in mente un'altra donna che, no, insomma, che non le somiglia tanto per la similarità del percorso, che è diverso. Però ecco, mi veniva in mente un po' anche la vita di Tina Modotti, anche se ovviamente nasce in tutt'altro modo e ha un percorso diverso. Però diciamo come vite di donne che, proprio perché forse attraversano un momento storico straordinario, appunto come detto prima, e loro stesse poi riescono per loro capacità ad incidere in un qualche modo nella vita, quantomeno in quella intellettuale, ma non solo, perché poi appunto come vediamo lei, ma poi anche Tina Modotti, insomma anche nella vita politica pratica, nell'azione diretta, ecco, nella storia con la S maiuscola, e questo è un tratto che colpisce sempre molto, no? Sembra, si dice sempre, oh, queste vite da film, che davvero sembrano sceneggiature di film. E poi vanno ben oltre invece la finzione della cinematografia e diventano invece molto reali e molto importanti. Quindi, senza aggiungere altro, vi lascio ovviamente alla ben più competente Martina. Grazie mille per la bella. Sentite? Sì. Per la bella introduzione, bella invece, insomma, ricca, e tra l'altro, insomma, mi permette anche di essere più, cioè mi rende più facile il lavoro di presentazione di questo libro. Allora, questo libro in realtà mi è stato chiesto di fare la prefazione, perché ovviamente non, io mi sono limitata appunto a curare la prefazione. È un libro che in realtà è uscito in Italia, nella prima edizione del 1978. E come tantissimi libri di Lussu, di Joyce Lussu, perché appunto come accennava prima Virginia, in realtà Joyce Lussu è stata tutto, ha fatto qualsiasi cosa, cioè è stata ricordata ed è ricordata negli ultimi anni soprattutto come partigiana, appunto diceva giustamente Virginia, è stata medaglia d'argento a valore militare, è stato capitano, una de delle poche capitane, per così dire, al femminile del periodo del secondo partigianato, e quindi è stata capitana delle brigate di giustizia e libertà, DGL. Ed è stata anche altre cose, cioè ha fatto tantissime altre esperienze nella vita. Quindi, oltre ad essere una partigiana combattente a tutti gli effetti, è stata anche una scrittrice, appunto, questo è uno dei tanti libri che ha scritto, e che sono tutti libri con una grande spinta biografica, anche se parlano di altre questioni o vogliono, come dire, indagare altri temi, comunque lei ha questa attitudine, che devo dire è molto femminista, da un certo punto di vista, di partire dalla propria biografia. Però lo fa in una maniera che in realtà confligge molto col femminismo dell'epoca in cui ha vissuto Joyce Lussu. E questo è un po' il taglio, tra l'altro, che vorrei dare alla presentazione di questo libro, perché come tutti i libri, quando non sei tu che li scrivi, cioè, come dire, restituirne il contenuto è sempre un po' tradirli, perché ovviamente alla mia lettura di questo libro Joyce Lussu non può più parlare perché non è più qui, e quindi chissà, nel senso, il mio percorso è un percorso che parte dalla mia biografia, dalla mia sensibilità, quindi io magari do più attenzione a un aspetto, ma è un libro ricchissimo di spunti. In realtà è un libro che prevalentemente, anche già dal titolo lo si capisce, vuol parlare di guerra, e però lo fa da un punto di vista scomodo, cioè dal punto di vista di una che la guerra l'ha fatta e che lo scrive in anni in cui c'era un forte movimento contro la guerra, quindi ha una posizione sicuramente outsider rispetto a un pacifista o a una pacifista che che odia le armi, ma su questo insomma ci torno, perché appunto come in tutte le cose Joyce Luce in realtà ha la sua posizione, che è proprio sua, originale, e non è mediata né da movimenti né da partiti, perché lei era fuori da tutto questo e in maniera consapevole lo faceva proprio perché non voleva far parte di gruppi, ecco. Appunto è stato detto partigiana, scrittrice, è stata anche una traduttrice, ha tradotto poesie e le ha anche scritte le poesie, quindi è stata anche una poetessa. Questo libro appunto si chiama L'uomo che voleva nascere donna, poi vi spiegherò alla fine della presentazione, facciamo al contrario, perché il titolo è questo, Diario femminista a proposito della guerra. E diciamo, questo libro mi è stato proposto e l'ho fatto volentieri, insomma l'ho curata volentieri la prefazione, perché l'ho trovato particolarmente caro a me, un po' per gli studi che avevo fatto fino a quel momento, per i libri che avevo scritto, e fondamentalmente per due motivi, sono i due motivi che mi hanno spinto proprio a fare la prefazione molto volentieri. Prima di tutto perché la Joyce Luce secondo me ha una capacità di scrivere, una scrittura molto toscana, nel senso che è polemica, sarcastica, le piace prendere in giro i soggetti che in qualche modo detesta o l'oggetto della, diciamo, della del pugno, però allo stesso tempo non è mai banale, è profonda, quindi sa quando farla, sa di ciò che parla, insomma sì, sicuramente una persona che appunto per la biografia anche che ha avuto conosce l'argomento della polemica, e quindi questo me l'ha resa un po', come dire, anche familiare per certi aspetti, no? Quindi da una parte, diciamo, tra le tante cose di cui tratta questo libro, uno dei motivi che me l'ha reso appunto familiare, oltre al modo di scrivere, è anche il fatto che lei restituisce un po' biograficamente la lotta contro il primo antifascismo, che è quello che bene o male l'ha iniziata verso poi la sua particolare biografia antifascista. La seconda cosa, ed è forse quella che me la rende ancora più caro questo libro, e che un po' lo accennavo prima, è il fatto che Joyce Luce è Joyce Luce, cioè non la si può ridurre a come dire, la posizione di un partito, la posizione di un movimento, la posizione del femminismo dell'epoca, la posizione dell'antimilitarismo dell'epoca, a quella dell'antifascismo. Cioè, lei è se stessa dall'inizio alla fine, nel bene e nel male, nelle sue polemiche, nelle sue non affinità o nelle sue affinità, autentica. Cioè, in questo devo dire una donna d'altri tempi, cioè è difficile oggi trovare anche nelle figure delle militanti donne così fuori da possibili incasellamenti, cioè lei scivola molto, non è aggredibile. Ecco, in questo è un po' la capacità che hanno le intellettuali di quell'epoca, appunto come diceva una poetessa surrealista, di avere le corna, cioè come dire, di non potersi far prendere, no? Quindi di riuscire a svicolare da possibili appartenenze o anche da tentativi di tirarle, no? Da una parte o dall'altra. E quindi appunto Joyce Luce ha, come appunto ho scritto nella prefazione, una singolarità di posizione, proprio per i motivi che vi spiegavo. Ma ci torniamo, insomma adesso a grandi linee vi dico un po' come vorrei introdurvi a questo libro. Parlando del primo punto, quindi della lotta contro il primo antifascismo, io direi che per la sua esperienza biografica e per quello che racconta in questo libro, le esperienze sia di lotta partigiana di Joyce Luce, sia le esperienze, diciamo, antipatriarcali, perché comunque lei era una femminista a modo suo, sicuramente odiava gli uomini non emancipati, con cui ha sempre combattuto a viso aperto e li ha sfidati, e ha sfidato uomini del calibro di Benedetto Croce, cioè non, diciamo, i partigiani, i militanti con cui lei combatteva. Quindi diciamo, lei aveva già una posizione anche per appunto per appartenenza familiare, ma aveva una posizione che le permetteva, come dire, di andare a discutere con chi la cultura la faceva all'epoca, e quindi riusciva anche a non chinare la testa di fronte a Benedetto Croce, che insomma all'epoca sicuramente era uno dei più grandi intellettuali viventi in Italia, amico di famiglia, ma comunque lei non gli faceva sconti. Vi leggerò tra l'altro dei passi in cui lei racconta dello scazzo con Benedetto Croce, lo si può chiamare così, E appunto però queste esperienze, sì, appunto di lotta partigiana che di lotta antiautorità e di lotta patriarcale, che appunto in sintesi la rendono un'antiautoritaria a tutti gli effetti, nonostante abbia avuto un percorso estremamente singolare, è appunto segnata da almeno due fratture. Una l'ho già accennata, è con gli uomini non emancipazionisti. E infatti in questo senso lei con il marito, con il compagno di vita, aveva in realtà un rapporto che travalicava l'essere compagni di vita perché condividevano in realtà una stessa idea dei rapporti tra i sessi e del rapporto di coppia, e questo li ha resi molto uniti. Proprio perché questa frattura che lei osteggiava e con cui lei combatteva nei confronti di uomini che non avevano un approccio, diciamo, aperto alle istanze di genere. Faceva in realtà, rendeva Emilio Lussu la persona più lontana da queste posizioni maschiliste. L'altra frattura, che è l'elemento su cui invece mi vorrei soffermare di più, perché è quello forse più ruvido del libro, è la rottura e la frattura che lei, segna, coltiva e approfondisce ogni volta che ne ha la possibilità, proprio col sarcasmo di cui vi parlavo, proprio toscano. La frattura con le donne dei salotti borghesi, quindi sostanzialmente con le donne borghesi dell'epoca, e anche però con un certo femminismo successivamente negli anni 70-80, su cui insomma la Lussu parlerà a lungo, in un capitolo che è il settimo capitolo del libro, di cui insomma vi parlerò un pochino più approfonditamente, su cui cercherò di incastrare un po' questo intervento. E vi dirò i motivi, appunto, vi farò dire i motivi da Joyce Lussu del perché queste femministe a lei proprio non, cioè lei proprio non le capiva e con cui non riusciva proprio a entrare in sintonia. Una cosa che però volevo dirvi prima è il fatto che la stessa biografia che appunto Virginia ci accennava di combattente di Joyce Lussu ci ricorda anche un'altra cosa, che in realtà la guerra di liberazione italiana, ma non solo italiana, però atteniamoci a questa parte delle Alpi, no? La guerra di liberazione italiana è stata internazionalista, è stata una guerra di liberazione internazionalista. Questo anche per aprire una polemica con chi oggi, no, ci racconta che la guerra di liberazione è stata una guerra di liberazione nazionale, cioè quindi sottintendendo una guerra degli italiani contro gli oppressori tedeschi che avevano occupato l'Italia e il nord negli anni poco prima, diciamo, della liberazione nazionale. Ecco, no. Non è stata una guerra di liberazione nazionale, non lo dico io, lo dicono storici migliori di me. È stata una guerra soprattutto di liberazione internazionalista, perché? Prima di tutto perché è una cosa che molti non sanno, che poco è studiata anche da un punto di vista storico, anche se negli ultimi 30 anni lo si è indagato un po' di più. Molti combattenti, in realtà, che hanno combattuto, diciamo, in Italia per la liberazione, non erano italiani. Non erano italiani, cioè venivano da paesi che non erano paesi italiani, cioè non venivano dall'Italia, erano paesi esteri. Ma c'è anche un altro motivo. L'altro motivo è che molti combattenti italiani avevano, come Joyce Lussu e come molti in realtà, una formazione internazionalista, cioè vale a dire avevano viaggiato in paesi prevalentemente europei, ma non soltanto, e spesso, cosa abbastanza singolare, erano diventati antifascisti fuori dall'Italia, cioè nell'incontro con altri antifascisti o con altri compagni che vivevano all'estero. Quindi questa cosa fa sì che sia per formazione sia per appartenenza, in realtà la guerra di liberazione fosse una guerra ben più composita che una guerra di liberazione nazionale. Aggiungo. Si può parlare di guerra e liberazione nazionale quando all'interno della guerra stessa vi erano italiani contro italiani, cioè vale a dire fascisti contro antifascisti? Si può parlare di guerra di liberazione nazionale quando all'interno della stessa guerra di liberazione si combatteva con delle fratture di classe, quando c'erano delle fratture di altro tipo? Che, come dire, attraversavano, tagliavano completamente questo tipo di lettura. Ecco, quindi secondo me Joyce Lussu è un po' incarna un po' tutte queste istanze, no? E ci dice, come dire, qualcosa in più, anche di più, sì, di più approfondito, proprio perché è biografico l'approccio che lei usa su come si poteva fare antifascismo in quel periodo. Allora, io siccome non voglio annoiarvi a parlare e a farvi la sintesi o il riassunto del libro, che è una cosa antipatica, vi leggerei pian piano e commenterei con voi, se volete, insomma, tanto vi introduco anche un po' alla scrittura di Joyce Luce, proprio perché è una scrittrice, è un peccato non leggere dei passi. Vi leggo alcuni passi che spiegano un po' quello che vi ho premesso finora. Allora, intanto il primo problema che mi sono trovata davanti, leggendo un po' anche io la biografia di Joyce Luce, io non sono ovviamente un'esperta né biografica, non mi sono mai occupata di Joyce Luce così tanto da potermi definire appunto una persona competente, no? Però l'ho incontrata per mie passioni personali pregresse, appunto sull'antifascismo in particolare. E il primo problema che mi sono posta è stato: chissà come avrà vissuto il suo percorso da combattente, proprio perché erano pochissime le donne combattenti nel senso con le armi in mano, perché poi in realtà anche il ruolo delle staffette, che poi è un po' il mito su cui si incardina la figura della partigiana, che pure sono state numerose ovviamente, in realtà era un ruolo combat, non era un ruolo neutrale, anche se non avevano le armi in mano, era comunque un ruolo militare, era considerato un ruolo militare, quindi giusto per non confondere le acque. Quando parlo di ruolo combattente intendo proprio che lei ha combattuto con le armi in mano, non che l'altro ruolo non lo fosse, faceva comunque parte della logistica all'interno del movimento partigiano. E quindi mi sono posta la domanda: chissà come avrà vissuto il problema della presa delle armi, cioè come si sarà vissuta il fatto di prendersi il suo fucile e di usarlo sostanzialmente. Allora, in modo molto originale. Perché? Perché lei in realtà intanto lo problematizza, il problema delle armi, cioè dice: cominciai a riflettere sulle armi, sulla grande differenza di potere tra chi le ha e chi non le ha, sull'urgenza però di liberarsi dalla guerra se vogliamo sopravvivere, e sulla novità che l'irruzione delle masse femminili, escluse da millenni dalla gestione delle armi, potrebbe determinare se decidessero di occuparsene. Quindi qui c'è già, una presa di posizione molto scomoda rispetto al femminismo dell'epoca. Quindi il problema delle armi lei lo pone in questi termini. Allora, la domanda che uno può farsi è: ma quindi lei aveva, un amore, cioè lei era, non si poneva in senso critico rispetto alla questione del militarismo? No, in realtà si poneva in maniera molto critica. È per questo che vi dico che lei è una sorpresa continua, perché in realtà sulla questione delle armi lei, fa un'analisi da studiosa. E è vero che in realtà, questo lo dice anche Paola Tabet, che è un'antropologa, no? Lei fa questa antropologa addirittura teorizza che la possibilità che si sia iniziata, che sia iniziata in qualche modo una divisione di genere, risalga proprio nel momento in cui, nel periodo dell'inizio dell'attitudine all'agricoltura, ci fosse una divisione tra gli uomini che avevano le armi e le donne che non l'avevano. E da lì venisse fondato quello che oggi si chiama patriarcato. Ovviamente è il punto di vista di Paola Tabet, però per dire che non era l'unica Joyce Luce a ritenerla questa cosa come un problema. Tuttavia, che cosa ci dice poi? Ci racconta come lei vive questa cosa. Avevo e ho sempre avuto una ripugnanza profonda per le armi. Sentirmi in mano quel freddo metallo che a un certo punto sputava fuoco e morte era come stringere un rettile particolarmente schifoso. D'altra parte, la mia coscienza di donna rifiutava di accettare il ruolo tradizionale delle madri, sorelle e spose, che incitavano i maschi a fare, armi in pugno, il loro dovere di patrioti o rivoluzionari, restandosene a casa. Quindi quello che lei sostanzialmente dice nel libro è: pur non amando le armi, io le ho dovute prendere, perché se non le avessi prese io sarei dovuta rimanere passivamente a casa e non avrei potuto prendere parte alla guerra di liberazione. Quindi lei sostanzialmente, ed è uno dei motivi per cui avrà questa polemica feroce con le donne borghesi, quello che lei non accetta e non perdona alle donne che non hanno combattuto è di aver mandato gli uomini a combattere. Come dire, voi siete rimaste a casa a fare le madri, le mogli e le sorelle e non avete partecipato insieme ai vostri uomini alla guerra di liberazione. Io, non amando le armi, tuttavia le ho prese. Come dire, ho fatto questo salto, no? Ad esempio, mi viene in mente una particolare prospettiva di partigiana che è Giovanna Zangrandi, che è stata, in realtà il suo vero nome era Alma Bevilacqua, è stata una combattente, anche lei attiva nel Cadore. Lei in realtà sulla questione delle armi ha un punto di vista completamente diverso rispetto a quello di Joyce Lusso, ed era una donna anche lei, molto consapevole tra l'altro del suo ruolo. E lei diceva che dormire con il mitra Steyr è come dormire con l'orso a chiotto, perché le dava sicurezza. Quindi pensate, no, a quanto anche rompe questa diversità di punti di vista con l'idea che le donne abbiano, come dire, un'attitudine naturale alla pace o un'attitudine naturale al pacifismo in generale. Ecco, questa cosa è la biografia delle donne che la smonta letteralmente. Poi questo non significa che chi abbia, che poi anche, voglio dire, il fatto che lei ci tenga a sottolineare che l'accesso alle armi per le donne le renderebbe pari all'uomo, ma allo stesso tempo dice attenzione a non amarle le armi, perché altrimenti sarete comandate dagli stessi strumenti che avete in mano, quindi non sarete più umani, no? In qualche modo vi trasformerete nelle stesse armi. È un po' anche il grosso tema delle rivoluzionarie. Anche le populiste russe avevano lo stesso tipo di consapevolezza e si ponevano lo stesso tipo di problema. È anche un po' un tema molto che si trova molto nelle biografie anche dei partigiani maschi, perché non ci sono, è difficile trovare, ci sono ovviamente nella diversità del genere umano c'è tutto, ma in generale è difficile trovare nei partigiani maschi e donne che fossero, nelle biografie, nei pochi che hanno avuto voglia di parlare tra quelli che hanno combattuto, il desiderio di esaltare il fatto di aver ucciso. Cioè difficilmente troverete uomini e donne che vi diranno siamo orgogliosi di aver fatto fuori 2000 fascisti, e non è che questa cosa l'avessero fatta con poca convinzione, l'hanno fatta con grande convinzione. Ma il motivo per cui loro combattevano non era uccidere i fascisti, il motivo per cui loro combattevano era fare la rivoluzione o eventualmente fondare una democrazia, a seconda poi ovviamente dei punti di vista politici di ciascuno. Quindi, come dire, l'ambizione che avevano era un'altra, era alta, era sovvertire un sistema autoritario e dittatoriale e appunto fascista per liberare gli uomini e le donne oppresse. Quindi è una cosa diversa. Quindi, diciamo, la questione delle armi è un tema che la Lusso affronta sia biograficamente sia da un punto di vista ideologico con queste remore, cioè con queste attenzioni, con queste avvertenze. Tuttavia, proprio per chiudere il cerchio sulla sua biografia da partigiana, lei nel libro, lo ripete più volte, ha sempre rifiutato, ma sempre comunque rifiutato, e anche qui con una spavalderia molto toscana, proprio sbattendolo in faccia allegramente a chi glielo diceva, l'idea che la lotta partigiana fosse un sacrificio. Ah, tu ti sei sacrificata per la patria, ti sei sacrificata per renderci il mondo migliore. Lei diceva no, io non mi sono proprio sacrificata un cazzo, cioè proprio no. Cioè, io ho fatto una scelta convinta e soddisfacente. Questo l'ha sempre ripetuto, convinta e soddisfacente. Quindi sono stata felice di averla fatta e non ho vissuto questa cosa come un sacrificio. Altra cosa che la faceva profondamente arrabbiare era quando le dicevano che, quindi lei è vedova di militare. E lei diceva no, io non sono vedova di militare, sono una militare combattente. No, non sono una vedova di un militare. Quindi anche qui è stato fatto torto, secondo me, sia a Emilio Lusso che a Joyce Lusso nell'averla dimenticata, no? Come dire, nell'averla in qualche modo relegata a vedova di combattente, perché la sua biografia dice tutt'altro e il rapporto con Emilio Lusso dice tutt'altro. Addirittura era lui che, quando come dire, i compagni tendevano a dire ok, dai, questa cosa non la fare, oppure no, non ti esporre troppo, era lui che diceva ma se lo vuol fare, che problema c'è? Cioè, chiedetelo a lei, no? Come dire, non decidete prima per lei, no? Fatela scegliere, è un essere umano fatto finito sa scegliere e può farlo. Poi naturalmente non sempre, come dire, l'irruenza di Joyce Lussu era condivisa dal marito. C'è un episodio abbastanza anche divertente, se volete, drammatico ma anche divertente, che lei racconta nel libro, quando appunto stufa, indignata, incazzata per la situazione in cui si trovavano a vivere, decide che vuole trovare un tedesco e lo vuole far fuori. Cioè lei proprio a tavolino decide: ora mi sono rotte i coglioni, il primo tedesco che vedo lo faccio fuori. Proprio così, eh? E lo racconta. Ovviamente Emilio Lussu non la prende benissimo e cerca di dissuaderla, però lei è testa dura e quindi ci vorrà un bel po' per convincerla. E quindi racconta lei con le sue parole: il mio piano era di trovare un tedesco isolato, seguirlo finché non avesse svoltato un angolo propizio e ficcargli il coltello tra le costole prima che avesse il tempo di voltarsi. Pregustavo già con ferocia tutta nuova l'impatto della lama acuminatissima col panno dell'uniforme e poi con la carne e vedevo il sangue colare. Cioè qui proprio horror totale. Un attimo e la lama robustissima e a doppio taglio sarebbe scattata fuori. Perché lei appunto lo trova in realtà e quindi è nel momento in cui sta per farlo. Ma un attimo prima di quell'attimo apparve in cima al vicolo una pattuglia che scendeva veloce a passo cadenzato. Il coprifuoco mi costrinse a tornare a casa, delusa e furibonda perché appunto non c'era riuscita. Raccontai a Emilio quella giornata e lo vidi chiaramente preoccupato. Mi parlò a lungo dell'inutilità dei gesti individuali, della necessità di un'azione collettiva, delle formazioni partigiane che si sarebbero organizzate e in cui sarei potuta entrare. Ma io ero in uno stato di fissazione metafisica. Volevo ammazzare un tedesco personalmente, direttamente e subito. Discutemmo buona parte della notte e Emilio divenne molto severo. Mi disse che non si ammazza nessuno senza assoluta necessità. Mi aveva parlato con quella durezza una volta sola, durante l'esodo da Parigi occupata, quando in un momento di grande depressione gli avevo proposto di ingoiare le pillole di potente veleno che portavamo sempre con noi per il caso che la Gestapo ci avesse preso e sottoposto a torture intollerabili. Si era arrabbiato e aveva buttato tutte le pillole in un letamaio e da allora non ce ne eravamo più procurate. Io però ero ancora fissata e all'inizio del giorno, non appena si levò il coprifuoco, uscii di casa col mio cappotto grigio, con la mano nella tasca e nella mano ben stretto il coltello a serramanico. Fu una brutta giornata. I tedeschi, dopo i primi giorni di larghezza e di libera uscita, avevano richiamato la truppa nelle caserme e uscivano solo in formazioni chiuse. Gli ufficiali giravano, ma sempre con almeno due attendenti. Nessun tedesco isolato si faceva vedere per la città. Tornai a casa con una tetraggine e un gran subbuglio interiore. Emilio si aspettava sorridente e contento di vedermi, perché secondo me aveva dato per scontato e non sarebbe tornata. Aveva temuto per me, non tanto per i rischi che correvo, quanto per gli sbagli che potevo commettere. Il raptus omicida si era dissolto, debbo dire che fu l'unico della mia vita, lasciandomi svuotata e scontenta. Quindi in realtà lei è proprio presa da da una foga, ha bisogno di agire, è una donna d'azione, è sempre stata una donna d'azione anche dopo, non è mai stata ferma, ha sempre agito e probabilmente la sua biografia è veramente la biografia di una donna d'azione, più che di un intellettuale. Lei lo è diventato, è diventata un intellettuale, ma è un intellettuale che ha unito la pratica con la teoria, ecco, non sicuramente non una salotti, assolutamente no. E questo anche, diciamo, fa parte di un temperamento che, prima ancora che ideologico, l'ha portata poi a odiare le donne dei salotti, perché lei non le riusciva a concepire, cioè non riusciva a pensarsi, appunto per di più appartenente a una classe aristocratica di grande, di altissima borghesia, avrebbe potuto comodamente farsi la guerra e il periodo partigiano da una posizione di grande comodità. No, non l'ha scelto, tutt'altro. E appunto vi accennavo alla litigata con Croce, e anche questo vale la pena insomma di essere appena appena letto, perché appunto lei è divertente e comunque insomma a Croce non è che proprio gliela racconta breve. Quando Croce diceva che la donna ha un intelletto inferiore a quello dell'uomo, con capacità di analisi, ma non di sintesi, di immaginazione, ma non di fantasia, io esplodevo rivendicando con voce acutissima la parità intellettiva delle donne e prendendomela con tutti i filosofi, da Platone a Hegel, al mio interlocutore, quindi nessuno sconto, che non erano serviti granché a capire i problemi della vita. Di fronte a tanta indignazione, povero Croce, non so quanto persuaso e quanto per amor di pace, finiva col dire che non vedeva nel mio cervello alcunché di particolarmente diverso da un cervello maschile e che sperava che mi dedicassi agli studi letterari, nei quali potevo probabilmente raggiungere qualche vetta. Però, aggiungeva, io ero un'eccezione. E allora lei si incazza come una bestia, ancora di più. Questo fatto dell'eccezione scatenava di nuovo le cateratte del mio sdegno. Come un'eccezione? Sono forse la donna barbuta del circo? Sono forse meno donna di altre donne? Ci sono milioni di donne molto più intelligenti di me. Quindi, insomma, ovviamente lei aggiunge anche che uno dei motivi di grandi litigate con Croce non erano soltanto queste, che insomma erano già abbastanza, c'erano già sufficienti per non farli andare d'accordo, ma litigavano in maniera furibonda quando lei gli parlava di marxismo, perché lì Croce vedeva nero, cioè proprio essendo un latifondista sostanzialmente di fronte a, diciamo, agli scontri sul marxismo, diceva lei, punteranno ancora più gravi. Quando si parlava del Soviet e dei comunisti, Croce perdeva tutto lo smalto del filosofo raffinato e raziocinante e affiorava il semplicistico panico del proprietario terriero. Quindi, ecco, diciamo, poi aggiunge anche, tuttavia, gli dovevo non poco e gli volevo anche bene, però sconti non gliene faceva. Ecco, questa era Joyce Lusso. La questione invece più spinosa e ruvida del libro, come vi accennavo, è quella invece contro, sì, si può dire contro le donne borghesi e contro cioè una fetta rilevante, se non tutta, del femminismo degli anni 70-80. Che cosa dice Joyce Lusso sostanzialmente? Racconta che durante il suo ripiegamento dal sud d'Italia a piedi, cioè lei stava camminando con le truppe, come dire, sbandate dei partigiani, dal sud sta risalendo verso Roma. Arriva a Cafri, dove appunto incontra la cerchia degli intellettuali vicini a Croce, e incontra Croce perché appunto lui aveva una delle sue tante dimore a Cafri, e racconta quello che lei vede. Lei arriva stracciona, affamata, completamente sporchissima perché si era fatta giorni e giorni camminata a piedi in mezzo al niente, sostanzialmente alla miseria e appunto allo sbandamento, e dice: a Cafri pareva che la guerra non ci fosse. Signore eleganti giravano in prendisole e grandi cappelli, col cagnolino e il figlio del papà gerarca esentato dalle tasse e dalla guerra. I locali di lusso erano aperti e ai tavolini si sentivano le conversazioni strascicate dei ricchi oziosi. Avevo dimenticato che quel tipo di mondo non era ancora stato spazzato via. Se avessi visto un anarchico dinamitardo mettere sotto i tavoli qualche bomba a orologeria, non l'avrei certo denunciato. E questo è l'incipit con cui racconta l'incontro con queste donne. Alle donne intellettuali e con toni appassionati auspicavano la sconfitta di Hitler e Mussolini, spiegai che le formazioni partigiane che si costituivano erano ambisesso e che avrebbero potuto benissimo entrare a farne parte come me. Io tornavo nell'Italia occupata, avremmo potuto fare la strada insieme, ma debbo confessare che i miei tentativi di reclutamento non ebbero alcun successo. E quindi sostanzialmente con queste donne borghesi Lusso non trova argomenti, come dire, di condivisione, perché al di là dei grandi, delle grandi allusioni o dei grandi afflati verso la liberazione del paese, nessuna di queste donne imprendisole aveva la benché minima voglia di combattere, appunto, che è quello che lei rimprovera. Sul femminismo in realtà le cose non andranno meglio, anzi forse andranno peggio, perché Joyce annota nel libro di aver fatto svariati, numerosi tentativi, senza appunto, con scarsi risultati, di aprire un dialogo con le diverse componenti del movimento femminista, quindi diciamo spaziando il più possibile, cercando laddove possibile un'interlocuzione sulla questione proprio della guerra e delle armi, che era quello di cui appunto vi parlavo prima. E per dimostrare quello che lei in realtà ha ricevuto in risposta, sempre col sarcasmo che le è noto, semplicemente scrive: ecco alcune risposte che ho ricevuto. Collettivo femminista di Trastevere. La guerra è cosa di maschi, a noi non interessa. Coordinamento giornaliste. È un problema troppo grosso, noi ci occupiamo d'altro. Sezione femminile della Lega Cooperative. Se a te la guerra interessa, è corretto che te ne occupi. Collettivi femministi vari, in varie parti d'Italia. La guerra la fanno gli uomini. Se ne occupino loro. Le armi ci fanno schifo, non vogliamo parlarne. Hai fatto la resistenza perché hai avuto un'educazione maschilista e combattentistica. Alla domanda, e voi che cosa avreste fatto se fosse stata al posto mio? Risposta, ma noi viviamo oggi, non allora. E alla domanda, ah, e se foste palestinesi o eritrei, che cosa fareste? Risposta, ma noi abitiamo qui in Europa. Alla domanda, e se avessero mandato il vostro ragazzo nel Vietnam per farlo tornare drogato e diossinato? Risposta, non ce l'hanno mandato. Alla domanda, e le basi straniere, il traffico delle armi, l'inquinamento bellico in Italia? Risposta, ci pensino gli uomini. Alla domanda sulla politica internazionale delle due superpotenze, le donne politicizzate ripetono le risposte dei loro uomini. Donne comuniste e socialiste, non è il momento di criticare la NATO. Gruppo di operaie della CGIL, dato che tra le due bisogna scegliere, l'URSS è meno peggio. Studentesse di un gruppuscolo marxista-leninista, dato che tra le due bisogna scegliere, il nemico numero uno è l'URSS. Risposta frequente di normali casalinghe, le guerre ci sono sempre state e sempre ci saranno, che ce pozzo fa? E quindi sostanzialmente lei dice... Dice, dal che risulterebbe un quadro della coscienza femminile non molto diverso da quello del passato. Le donne si occupano di problemi sessuali e psicologici, gli uomini continuano a gestire i poteri decisionali. Gli uomini organizzano i sistemi di produzione e la difesa armata dei loro sistemi, le donne subiscono senza entrare nel merito. Poi aggiunge, e questo è diciamo l'elemento su cui lei poi in realtà si iscrive, no? Dice, ci sono anche altre risposte però. Soprattutto al di fuori dei partiti e dei gruppi, o tra le donne che pur facendone parte non ne ripetono passivamente le impostazioni. E quindi, diciamo, quello che poi lei sottolinea, non approfondendolo troppo, però è quello che un po' esce fuori da quel libro che forse non vi ricordate, ma che uscì negli anni Ottanta e fece molto scalpore, che è un libro di Ida Faré, che è una intellettuale femminista molto conosciuta, era molto conosciuta, ma che ha continuato a scrivere, che si chiamava Mara e le altre, che era un libro che parlava dell'incontro mai avvenuto, tentato ma non riuscito, tra le donne del terrorismo, diciamo della lotta armata più correttamente, le donne della lotta armata degli anni 70-80 in Italia e le vecchie partigiane, e il motivo per cui non si comprendono, perché le partigiane in qualche modo vedono e in questo scontro incontro in realtà c'è anche un altro elemento, cioè le femministe che entrano in questo dialogo a tre, e è un dialogo tra sorde sostanzialmente. Le femministe non comprendono le donne della lotta armata perché dicono prendete le armi quindi siete come maschi, sostanzialmente quello che viene risposto alla Luss quando le parla della guerra e delle armi. E le partigiane che non capiscono perché le femministe ce l'hanno con loro, perché le femministe rimproverano le partigiane di aver voluto l'eguaglianza mentre loro vogliono la differenza tra i sessi. E quindi le partigiane non capiscono, dicono ma che differenza? Noi non è che volevamo essere ridotte al nostro genere femminile, noi volevamo semplicemente poter discutere, decidere, partecipare e costruire un mondo nuovo pari con gli stessi strumenti, la stessa possibilità e se vogliamo, se vi piace, a me no, ma se vi piace, con lo stesso potere che hanno gli uomini, insomma, no? Quindi è un po' questo che si rintraccia anche, io ce l'ho visto in questo libro, questo elemento di discussione tra queste tre anime di donne impegnate che appunto trovano difficoltà a confrontarsi sulla questione della violenza, perché poi non è tanto secondo me la questione delle armi il problema in realtà, cioè almeno per come la vivo io e per come la vedo io non è tanto il problema delle armi quanto il problema della violenza, e il problema che cioè il disagio che la consapevolezza del fatto che le donne, come gli uomini, sono violente quanto gli uomini, crea. Cioè, perché? La domanda è: perché crea disagio pensare a una donna violenta e non crea tanto disagio pensare a un uomo violento? È questo il problema. Cioè, l'interrogativo che uno si dovrebbe porre forse oggi è perché appunto il guerriero è giusto e la donna è l'anima bella. Non esiste una guerriera giusta. Cioè, oggi un po' meglio forse si riesce un po' meglio a discutere di questo, però c'è proprio l'idea che esista una minaccia data dalle donne marziali, no? Che è un po' quello che diceva in quel bel saggio Jean Elstein, quando parlava proprio delle martial women e maternal men, cioè gli uomini materni e le donne marziali sono il grande problema, cioè sono quei paradossi, quei due contrasti che si tengono insieme, che rendono, mostrizzano un po' chi in qualche modo li incarna, no? E io non è che la volevo fare tantissimo lunga ancora, quindi mi fermerei qui, magari se ci sono domande o interventi si riesce a dialogare. C'è qualcuno che vuole fare una domanda, che ha dubbi, perplessità, critiche? No, critiche no, grazie. Va bene, frammentre sì, trovo, come molte quasi tutto insomma la sua produzione, estremamente contemporaneo, il dibattito appunto, come dicevi tu, ha più voci e poi emerge, no? Di nuovo in questo lavoro di queste appunto di queste correnti anche che non riescono a comunicare un po' anche probabilmente, immagino, credo anche per così per scarto generazionale un pochino, non tanto perché tra le femministe e le terroriste no, però insomma sicuramente lo scarto generazionale fa cioè ha sicuramente, come dire, influito nella capacità di comunicare, ma poi ci sono tutta un'altra serie di fattori come dicevi tu. Quello che ecco, rimane purtroppo contemporaneo, ai noi, anche nella nostra esperienza personale, direi, è il così un po', no, l'illusione che il femminismo, e quindi come grande contenitore, debba poi o sia poi visto come appunto un qualcosa che unisce e che dovrebbe unire, no? Secondo così l'ipotesi più tante anime in quanto femminismo, cioè in quanto, no, lotta di liberazione dal patriarcato, che in parte è vero ed è, come dire, giusto, ma nella realtà dei fatti poi il femminismo è un contenitore che però appunto incontra al proprio interno grandissime divergenze di percorso proprio perché non può e non dovrebbe, a mio avviso, ma insomma appiattire poi le unicità e le cosa che un po' per necessità ovviamente si, no, avviene e qui in particolare in certi momenti storici come questo e per certe donne come questa è un problema, perché ovviamente la incapacità di comunicare, cioè la difficoltà nel comunicare la propria esperienza e metterla nel contenitore del femminismo, che però è abitato ed è sarà abitato da visioni molto diverse e molto, senza stare a dare un giudizio di merito, ma diverse e contrastanti anche con la sua. Quindi questo lo trovo estremamente contemporaneo, lo trovo estremamente attuale e vero ancora di più adesso, anche se adesso ovviamente la situazione storica è diversa e quindi anzi adesso è ancora più complicato perché, no, le sfaccettature sono di più, l'impatto mediatico è maggiore e quindi, però mi ha sempre colpito, no, in lei, ma come in altri, appunto ho citato la Modotti prima proprio perché come lei ha un'esperienza proprio di militante diretta insomma, nella guerra civile spagnola, ma insomma nella Russia comunista eccetera, insomma nel Centro America, quindi di base trovo estremamente attuale, purtroppo direi, in un certo senso, il grande scarto, la grande incomunicabilità che lei esprime e a cui lei mi sembra che poi cerchi sempre le risposte, ecco, un'altra grande dote delle donne della sua epoca, non arroccarsi, no, su una posizione di, come invece purtroppo invece avviene molto, mi sembra un po' di più oggi, no? Questa presunzione, questo arroccarsi, questo mettere l'etichetta, no? Della migliore femminista, del miglior femminismo, no? Del femminismo giusto, del transfemminismo giusto. Ecco, proprio perché siamo agli albori, anche se gli albori sono molto prima, come sappiamo, ma diciamo, no? Quelli che sono chiamati gli albori del femminismo con la Lusso e con le donne della sua epoca, ho sempre trovato una grande umiltà, una grande. No? Un grande non volersi arrogare il diritto di decidere qual era la pratica giusta, quali erano le pratiche giuste e di volerle poi imporre, quello che invece poi purtroppo è un po' avvenuto nel femminismo come in tanti altri campi, no? Mi sembra questo, ecco. Ho dimenticato. Scusate, l'ho dimenticato. In realtà il titolo esce fuori da un commento di un bambino che, parlando della guerra, sostanzialmente, dice: anche i maschi non vogliono le guerre. Proprio irrompe dentro la discussione che si ha in classe. Dice: anche i maschi non vogliono le guerre. Non è mica vero che i maschi vogliono le guerre perché sono maschi. E aggiunge: mio nonno ha perso una gamba nella guerra di Russia e dice che era meglio che nasceva femmina, così non ci andava. Ecco il motivo del libro, del titolo del libro. Gioca un po', no, su questo discorso del maschile femminile. Sì, è una boutade, appunto, ironica, perché lei, tra l'altro, era una di quelle donne partigiane che, come ce ne sono state tante, ovviamente, e ancora meno perché sono quasi tutte purtroppo morte. Ma che andavano, insomma, nelle classi con gli studenti a discutere, a parlare della propria biografia, a parlare della guerra e liberazione e di quello che è stato il fascismo, delle leggi razziali e di tutto quello che è stato quello sgomento, quel delirio collettivo che è stato il fascismo europeo. E quindi raccoglieva anche, come dire, degli aneddoti. Le piaceva anche terrorizzare i ragazzi, questo l'ho saputo da una sua amica che, essendo una donna così molto forte cioè aveva un'espressività potente, proprio potente. Poi era un donnone, comunque. Quindi questi bambini, ricordo appunto, mi raccontava una del centro studi di Lusso che l'ha conosciuta, l'aveva portata lei, tra l'altro era insegnante, a parlare in questa classe e un ragazzino gli aveva detto: ma quindi voi usate anche le armi? E lei se l'era mangiato vivo, e aveva detto: ma cosa credi? Prendere le armi non è mica uno scherzo. Lui: ma io veramente l'ho solo chiesto. E quindi, insomma, lei era anche molto li spaventava un po' i bambini. Era troppo forte per lo stereotipo femminile, forse, no? Comunque, una cosa che mi faceva anche sì, piacere, forse anche per approfondire meglio, cioè per situare meglio la questione del femminismo, è che ho trovato, tra l'altro, in più di un libro uscito negli stessi anni quasi, perché appunto questo è uscito nel 78, ci sono altri libri francesi usciti negli anni tra il 78 e il 79, che più o meno criticano il femminismo per gli stessi motivi. E mi chiedo, forse ci sarà anche un motivo per cui donne che non si conoscevano, insomma, arrivano poi alla stessa conclusione. Quello che secondo me queste donne dalla grande biografia, e come dire, così tanto capaci di riflettere sulla propria esperienza, non riuscivano a sopportare, era l'idea di essere ridotte a un femminile, cioè, come dire, essere ritenute donne tra le donne o femministe per il solo fatto di essere donna. Questa cosa, secondo me, non la riuscivano a comprendere. Cioè, capivano, ovviamente, perché l'avevano passato sulla propria pelle, il motivo dell'essere escluse, dell'essere perseguitate perché donne, di avere un ruolo subalterno rispetto ai maschi. Questo è assolutamente compreso, come dire, e ce l'hanno ben presente. Però loro, quello che loro dicono è: ma perché non ribellarsi singolarmente? Cioè, di fronte alla tua vita personale, tu sei in grado di incidere e di dire no. prima ancora di entrare in un movimento femminista, far parte di un gruppo, organizzarsi, eccetera. Ma no, lo puoi dire nella tua vita, no? Cioè, puoi scegliere di vivere in una situazione meno comoda e, come dire, rifiutare quello che ti viene imposto. Quindi, da questa posizione forte, perché dire no da sole presuppone una forza maggiore che dirlo collettivamente, da questo punto di vista sicuramente più forte, non capiscono il motivo per cui una singola individua che come dire, ha una sua biografia, è definita da se stessa, non ha bisogno di dirsi donna per dirsi chi è. Per quale motivo, si chiedono, io vi devo ridurre a essere un genere o un sesso? E la Luss lo spiega in modo sempre molto polemico in un passo e dice che le donne abbiano rifiutato la guerra perché per natura più buone e meno portate all'aggressività e alla violenza. Tenete conto che all'epoca in realtà era questo l'argomento, cioè negli anni 70, 80 il femminismo dell'epoca viveva un po' tra quello sdrucciolamento, quello scivolamento anche a volte un po' voluto, a volte perché era la teoria che era scivolosa, tra la biologia e la cultura, per cui tu non capivi se essere donna era un costrutto culturale che ti portava a essere più buona, meno aggressiva e tante belle storie, oppure se questa la difendeva dal fatto che tu fossi biologicamente donna. Cioè, non è banale lo scivolamento. E tante volte non si comprendeva. Cioè, io mi ricordo una militante degli anni 70 che mi aveva raccontato che le donne del PC di Roma avevano fatto un manifestino dicendo finalmente madri. Le femministe si erano incazzate e le avevano detto voi non avete capito nulla. E lei gli aveva risposto, da femminista critica, ma chi è che non ha capito? Cioè, chi è che non ha capito? Perché voi non fate altro che parlare di maternage. Chi è che non ha capito? Le donne del PC o non avete capito voi? Perché alla fine, cioè, sempre intorno al materno si gira, sempre intorno al fatto di essere femmina si gira, è quello che ci definisce. E allora c'è un problema. E la Luss lo vede chiaramente e dice... Non è convincente, lei dice proprio, il fatto che essere per natura più buona e meno portata all'aggressività e alla violenza non è convincente. Che vuol dire per natura? Per struttura biologica e fisiologica? Solo i razzisti fanno la storia per categorie somatiche. Qua i neri, là i bianchi, qua gli alti, là i bassi, qua gli uomini, là le donne. La carica di aggressività che c'è in tutti noi si determina e esprime secondo le circostanze che ci condizionano. Le donne non hanno in sé meno violenza degli uomini, sono soltanto più abituate storicamente a subirla e a esprimerla in forma indiretta e contorta, quindi in modo aggressivo-passivo o quello che volete. Quindi su questo lei in qualche modo entra a gamba tesa sul proprio il fondamento di quel tipo di femminismo, che era comunque un femminismo, ripeto, differenzialista, con tutti i problemi che poi il differenzialismo ha portato e porta tutt'oggi. Ricordiamoci che uno dei partiti più differenzialisti, proprio per questioni, diciamo, ideologiche, è la Lega oggi. E che i fascismi non sono mai stati non differenzialisti, anzi, hanno sempre differenziato tra i sessi, tra le classi, tra le etnie, creando gerarchie, dividendo, dando un ordine, un apice e una base. Quindi sul differenzialismo abbiamo un problema e qualcuno glielo stava dicendo, e questo problema, come dire, era sempre dietro, era l'ombra dell'ideologia dietro, insomma. Basta, non voglio dire altro, se no